falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo del più grande gruppo musicale di tutti i tempi, i Beatles, ma parliamo d'amore, perché in realtà i Beatles forse non avrebbero potuto esistere così come li abbiamo conosciuti se non fosse stato per un uomo che fino dal primo incontro ha riconosciuto il loro talento, si è messo al loro servizio facendo un vero e proprio atto di fiducia, di investimento e quindi un atto d'amore. Quest'uomo si chiama Brian Epstein, è di lui che voglio raccontarvi la storia, perché lui riuscì nell'impresa allora ritenuta incredibile di traghettare i Beatles ben oltre il Mersey, il fiume di Liverpool, per farli conoscere a tutto il resto del mondo. Tanto che Paul McCartney ha sempre giudicato e considerato Brian Epstein come uno dei Beatles. Credevamo davvero in lui. Pensavamo fosse un grande. Non credo mettessimo mai in dubbio i suoi giudizi. In genere erano molto validi. Se mai c'è stato un quinto Beatles, questo era Brian. If anyone was the fifth Beatle, it was Brian. Avete presente quei giochi di costruzioni dove si tira su una torre continuando a sfilare pezzi dalla base e aggiungendoli sopra? Beh, se si sfila il pezzo portante, la costruzione crolla al suolo. E nella storia dei Beatles succede un po' la stessa cosa, perché togliere Brian Epstein equivale a togliere il pezzo portante di tutta l'impalcatura. E in effetti, insomma, forse qualcuno dice che l'inizio della fine dei Beatles coincise con la dipartita di Brian Epstein, perché lui è il fattore di equilibrio del gruppo, è l'uomo che con la sua gentilezza e il suo grande savoir-faire riesce nei 5 anni e mezzo in cui è il manager dei Beatles a fare convivere armoniosamente le diverse e spesso conflittuali personalità dei fantastici quattro. La sua fede è assoluta, eppur non essendo e non nascendo come un esperto di musica pop, lui riesce a entrare in sintonia con tutta una generazione di giovani artisti come Lennon e McCartney, ma non solo, perché negli anni rappresenta altre star come Jerry and the Pacemaker, Cilla Black, e tutti gli riconoscono questa sensibilità. Anche la grande cantante Marianne Faithfull ricorda Epstein con grande affetto. La dote più grande di Brian Epstein era che in realtà a lui importava davvero di questa piccola comunità che noi eravamo. Questo gruppo di giovani artisti che lui aiutava, a partire da Mick Jagger a John Lennon. Il senso della comunità Epstein lo conosce fin da bambino, perché Brian Samuel nasce a Liverpool il 19 settembre del 34, è il figlio diletto di una coppia di ebrei della media borghesia, perfettamente integrata nella comunità che si stringe intorno all'antica sinagoga della città. Come scrive nella sua autobiografia Una cantina piena di rumore, la sua nascita è accolta con grande attesa dai genitori Henry e Queenie. Sono il figlio maggiore, una posizione importante in una famiglia ebrea, che quindi si aspettava molto da me. Gli Epstein sono originari della Lituania. Il nonno Isaac è emigrato alla fine dell'Ottocento, è andato in Inghilterra. Gli Epstein avviano un negozio di arredamento che ha molto successo, tanto che il padre di Brian decide di espandersi, acquista un negozio accanto al suo, iniziando anche un'attività nel settore degli strumenti musicali e negli apparecchi di riproduzione del suono. L'acronimo della nuova attività è NEMS, North End Music Store, e come vedremo sarà il punto di partenza della storia di Brian con i Beatles. Nonostante le aspettative dei genitori, la carriera scolastica di Brian non è brillante, cambia 9 scuole. Da alcune di queste viene perfino espulso perché viene considerato pigro, disattento, fino a quando a 16 anni smette di studiare perché ha dei sogni, come tutti i ragazzi della sua età, però i suoi sogni non collimano con quelli della famiglia. Avrebbe dovuto entrare nel business familiare come tempo addietro aveva fatto il padre, ma lui non voleva. Innanzitutto perché Brian non era interessato a questo genere di cose e poi perché il suo vero desiderio era di fare lo stilista di abiti. Beh, insomma, si può sopportare di avere il figlio espulso da qualche scuola, ma il figlio stilista negli anni 50 è un po' troppo. E quindi, nonostante i quaderni di Brian siano coperti da silhouette femminili e cose di questo genere, e da disegni, il ragazzo entra a lavorare nel negozio di famiglia. I disegni cambiano. Adesso si mette a progettare mobili, intanto incanala la sua creatività nel lavoro di tutti i giorni. Cambia le vetrine, si occupa dell'arredo del negozio, si innamora del design anni 50. Con gran sollievo del padre scopre anche di avere un talento nella vendita. Il primo giorno di lavoro vende per 12 sterline un tavolo da pranzo a una signora entrata per prendere uno specchio. Un genio, o forse solo un ragazzo con un fascino. E sempre Marianne Faithfull a parlarci del fascino di Epstein. E Marianne Faithfull se ne intendeva. Aveva enorme fascino. Al contrario del fascino tutto genio e sregolatezza di Mick Jagger, che era uno degli amanti della Faithfull all'interno dei Rolling Stones, il fascino di Brian è quello delle persone quiete, quelle cortesi, ben educate. Ha il vantaggio di avere un volto dai tratti angelici, aggraziati. Le foto del tempo ce lo mostrano sempre sorridente, gli occhi gentili, la pelle chiara, i capelli leggermente mossi sulla fronte spaziosa, la faccia del bravo ragazzo, e questo lo aiuta molto sia in negozio che nella vita. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Viene chiamato a prestare servizio nell'esercito, non ci rimane molto, viene congedato in anticipo con la giustificazione che non è adatto emotivamente al servizio militare. Nella sua autobiografia lui sostiene che il vero problema fu che lo beccarono mentre prendeva in giro un ufficiale, ma la realtà sembra essere un'altra. Pare che Epstein si fosse fatto fare da un sarto una divisa da ufficiale e con questa andasse in giro nei bar a rimorchiare ragazzi. Scoperto dalla polizia militare, evita la corte marziale solo perché si dichiara disponibile a un colloquio con lo psichiatra dell'esercito. Siamo nel 1952, la Gran Bretagna puritana e post-vittoriana non tollera l'omosessualità, è ancora un reato, non c'è da scherzare. Lo stesso anno Alan Turing, il grande matematico pioniere dei computer, viene condannato in quanto omosessuale, costretto a scegliere tra 2 anni di carcere o la castrazione chimica. Lo scienziato sceglie quest'ultima e poi si suicida nel 1954 a 41 anni. Come Alan Turing, Brian non riesce a venire a patti con la sua omosessualità. Si esprime, si reprime, esplode, prova a ignorare i suoi desideri e la difficoltà a gestire i sentimenti, i suoi bisogni sembra segnare la sua intera esistenza. Quando gli psichiatri dell'esercito capiscono la sua vera natura, lo rimandano a Liverpool e lo rimandano al lavoro nel negozio del padre. È un ritorno che in quegli anni e in quel lo scenario ha il sapore della sconfitta. Stiamo parlando di Brian Epstein, il manager che aiutò i Beatles a diventare la band più famosa del mondo. Ray Coleman, il grande direttore della rivista Melody Maker, scrisse una cosa molto vera su di lui: niente è paragonabile a quello che Brian diede ai Beatles, vale a dire amore assoluto, una cosa insostituibile, proprio quello di cui avevano bisogno in quel periodo, un uomo di buon senso con un po' di soldi. Epstein ha letteralmente consacrato la sua vita a assicurare ai Beatles il successo che pensava meritassero. Fa di tutto, anticipa loro i soldi, li sostiene quando sono demoralizzati, li ospita a casa sua. E quando un discografico, il famoso discografico della Decca, che disse che i Beatles dovevano cambiare mestiere, quando rifiuta le loro canzoni, lui, che non alza mai la voce, inizia a urlare come un pazzo, perché per lui è impensabile che la gente non veda la luce che si nasconde in questi ragazzi poco educati e mal vestiti. I Beatles sono loro ed Epstein è il minatore che, scendendo le scale di accesso che portano alla cantina dove suonano, scopre loro e loro l'apostrofo. E vediamo in che modo Epstein arriva. Siamo a Liverpool, la città natale di Brian, dove è da poco tornato dopo la penosa esperienza del militare. Prova a frequentare la Royal Academy of Dramatic Arts, vuole fare l'attore, ma non funziona nulla. Nel frattempo la famiglia acquista il negozio di strumenti musicali vicino a loro, inizia una fiorente attività. In breve tempo il negozio diventa famoso, non solo a Liverpool ma in tutto il nord dell'Inghilterra. Lo conosce anche Paul McCartney, all'epoca uno di quei ragazzi che quasi ogni giorno entra nel negozio di Brian Epstein per curiosare. L'impressione iniziale era che fosse un semplice negozio dove andare a guardare le copertine dei dischi e dove comprarne uno ogni tanto. NEMS stava per Northern Music Store e il padre di Brian, Harry, vendette a mio padre un pianoforte che ancora posseggo. Quindi c'è stata una connessione fra le due famiglie prima ancora che ci conoscessi. Harry ha la giusta intuizione di mettere a capo del negozio quel figlio maggiore che fino allora ha combinato poco o niente, e lui si cala subito nella parte dell'imprenditore perché gli piace avere a che fare con un prodotto moderno come i dischi e gli strumenti. Inizia anche a collaborare con una rivista musicale, il Mercy Beat. La sua rubrica si intitola Fermate il mondo, dentro c'è molto da ascoltare. Si firma come Brian Epstein del NEMS. Proprio leggendo le pagine del giornale in cui scrive il Mercy Beat, Brian sente parlare dei Beatles per la prima volta, anche se nella sua autobiografia lui racconta la storia in un altro modo. Verso le 3 di sabato 28 ottobre 1961, un 18enne di nome Raymond Jones, vestito in jeans e giacca di pelle nera, entrò in un negozio di dischi del quartiere di Whitechapel a Liverpool e disse: «C'è un disco che voglio comprare, è My Bonnie ed è stato registrato in Germania, lo avete?» Dietro al banco c'è il 27enne Brian Epstein, direttore del negozio, che scuote la testa. «Di chi è il disco?» domandò. «Non ne avrete sentito parlare», rispose Jones. «È un nuovo gruppo, si chiamano Beatles». E c'è chi racconta che furono proprio i Beatles a mandare quel ragazzo in quel negozio. Fatto sta che Brian vuole organizzare un incontro con il quartetto durante il loro prossimo concerto al Cavern il 9 novembre. E qui conosce Paul, John, George e Pete Best, che all'epoca è ancora il batterista del gruppo. Non avevo mai avuto niente a che fare con la gestione degli artisti prima di andare al Cavern Club a vedere i Beatles. Per me era un mondo nuovo. Ero stupito dall'atmosfera buia, sporca e piena di fumo del posto dove si suonava la musica beat. Al Cavern Brian viene accolto con riguardo perché viene presentato come il proprietario del famoso NEMS. E quando i Beatles iniziano a suonare, Epstein, che non ama molto la musica pop, è colpito dal gruppo e dalle loro canzoni. Soprattutto è colpito dal loro modo di fare, diverso, allegro, ironico, in mezzo alle pessime luci, ai microfoni gracchianti e anche all'atmosfera angusta. Insomma, io al Cavern ci sono stato, è veramente un cantina o poco più. Comunque, lì dentro i quattro ragazzi esprimono qualcosa di nuovo che conquista Brian. A parte tutto il resto, successe una cosa straordinaria. Rimasi subito colpito dalla loro musica, dal loro ritmo e dal loro senso dell'umorismo sul palco. E anche dopo, quando li ho incontrati, mi colpì il loro fascino personale. Da quella sera Brian Epstein si unisce al numero sempre crescente di fan che vanno a vedere i Beatles, ma dentro di sé inizia a farsi strada un'idea folle: occuparsi dei Beatles. Decide di chiedere un parere ai suoi genitori, soprattutto alla madre Queenie, che lui ama profondamente. Chiese a me e a suo padre di ascoltare un disco. Disse: dimenticate il cantante, ascoltate solo la band a supporto. In realtà eravamo sempre abbastanza interessati ad ascoltare nuovi dischi, visto che era il nostro business. Ci disse: sono quattro ragazzi e vorrei diventare il loro manager. Non avrò bisogno di più di 2 giorni e mezzo a settimana, è solo una sorta d'occupazione part-time. Disse che non avrebbe mai interferito con gli affari. Il 3 dicembre 1961 Epstein propone ai Beatles di diventare il loro manager. Si incontrano in negozio, ci sono tutti tranne McCartney, in ritardo perché sta facendo il bagno. Epstein è seccato, George Harrison lo rassicura dicendogli: arriverà in ritardo ma almeno sarà pulito. A parte John Lennon, gli altri tre sono ancora minorenni, quindi devono coinvolgere i genitori. Alla fine si raggiunge un accordo. Il 24 gennaio 1962 i Beatles firmano un contratto di 5 anni con Brian Epstein. Lo firmano tutti, anche l'assistente di Epstein che fa la testimone, tranne Brian. Nonostante questo, nessuno ebbe a lamentarsi per tutti gli anni a venire, perché tutto sembra iniziare sotto i migliori auspici. Oggi stiamo parlando di Brian Epstein, un ragazzo che a soli 27 anni e senza alcuna esperienza musicale diventa il manager della più grande band di tutti i tempi, il manager dei Beatles. Soprattutto lancia i Beatles, perché con il suo aiuto i quattro di Liverpool arrivano a scalare le classifiche di tutto il mondo. Poi arriveranno a conquistare gli Stati Uniti e conquisteranno tutto il globo. È un obiettivo quasi impossibile per un inglese conquistare il globo, ma soprattutto gli Stati Uniti. E se ancora vi domandate come fa un ragazzo ebreo rimandato più volte a scuola senza particolari doti a ottenere in soli 5 anni un risultato così incredibile, posso solo rispondervi facendo ascoltare a tutti voi una dichiarazione che Brian fece a un reporter che gli rivolse questa stessa domanda. Si fa di tutto, si lavora tantissimo. Ci si mette a urlare anche da sopra i tetti di come sia grande la tua band, anche quando a nessuno interessano le band. La gente pensa che sei pazzo, ma tu continui a urlare. Eh sì, bisogna crederci, e in effetti Epstein si butta a capofitto nell'impresa di fare conoscere i Beatles al mondo. Si comporta come un vero businessman, di quelli che credono nel proprio prodotto e vogliono lanciarlo alla gente. Lui fa lo stesso, e come per i prodotti parte dalla confezione. La prima cosa che bisogna fare è cambiare l'immagine della band: troppo working class, troppo operaia, troppo da teddy boy. Fino allora i Beatles indossavano jeans sporchi e giacche di pelle da 4 soldi, senza gran successo secondo Paul McCartney. Non volevamo più sembrare ridicoli. A volte la gente rideva di noi. Ci sentivamo degli stupidi e non volevamo sembrare un gruppo di idioti. Così a un certo punto Brian ci suggerì di indossare abiti su misura. Noi indossammo quelli che ci sembravano i più adatti e funzionò. L'antico sogno di Brian di fare lo stilista trova il suo sfogo con i Beatles. Già c'era stata Astrid Kircher, la bionda fotografa fidanzata del Beatle che morì, quello Stuart Sutcliffe, che aveva confezionato la pettinatura un po' a caschetto, a scodella. Poi arriva lui e fa indossare ai Beatles i vestiti senza colletto, con un approccio molto moderno. A quei tempi non si pensava a quelle faccende. Epstein invece controlla tutto quello che accade attorno ai Beatles con una grandissima attenzione anche verso l'estetica. Quindi i Beatles diventano non più Teddy Boy, in qualche modo leader opinion, vicini, confinanti con gli altri gruppi, ma sempre un passetto più avanti e tutti a imitarli. Memore di quando si divertiva a disegnare dei mobili, si occupa proprio del loro styling, di molte delle loro apparizioni in pubblico, addirittura allestisce delle scenografie sul palco, così che i Beatles diventano in qualche modo l'immagine e l'icona degli anni 60. È un'immagine che, secondo Cinzia, a quel tempo la moglie di John Lennon, contribuirà non poco al successo dei Beatles. Sognavano di diventare il top dei top, ma non penso che ci credessero veramente. Era più un sogno, una cosa divertente, uno scherzo. Faceva parte del loro umorismo, ma in realtà, in fondo, quello che gli successe andò ben oltre le loro aspettative. Se non avessero incontrato Brian Epstein, che era una persona moderata, uno che parlava correttamente, che vestiva bene, sono sicura che non sarebbero andati da nessuna parte. Non credo che Brian abbia mai avuto il giusto riconoscimento per tutto ciò. Così messa a posto l'immagine, Epstein inizia a cercare una casa discografica, va a Londra, parla con i dirigenti delle più importanti etichette del tempo, contatta la Decca, lo abbiamo già detto, fa un'audizione ai Beatles e rifiutano il gruppo. E per Brian è uno shock. Prendemmo un caffè. Poi il signor Rowe, un uomo basso e robusto, mi disse: «E non uso mezzi termini, signor Epstein, non ci piace il suono dei suoi ragazzi. I gruppi di chitarristi sono destinati a finire». Allora, mascherando la fredda delusione che si era impossessata di me, dissi: «Lei deve essere fuori di testa. Questi ragazzi stanno per esplodere. Sono assolutamente certo che un giorno saranno più grandi di Elvis Presley». Beh, il signor Rowe disse che i gruppi con le chitarre non funzionavano. Non credo ebbe una grande carriera, anche se la Decca corse ai ripari mettendo sotto contratto i Rolling Stones prima di perdere anche questo secondo treno. Intanto Epstein ha la irrevocabile convinzione che i Beatles saranno una grande band. Quando sta per perdere le speranze, qualcuno gli consiglia di provare alla Parlophone, un'etichetta minore della EMI, della EMI. Convinto proprio dall'entusiasmo di Epstein, c'è un manager della Parlophone che avrà un ruolo fondamentale nella storia dei Beatles, perché è anche un musicista e un arrangiatore. Questo signore si chiama George Martin. Bene, è lui che decide di mettere sotto contratto i Beatles. Rimasi molto impressionato dalla sua devozione, dallo zelo, che mi fece venir voglia di incontrarli. Non avevo niente da perdere. E ovviamente quando li vidi, ebbi la sua stessa sensazione. Me ne innamorai all'istante. Avevano un carisma eccezionale. Brian Epstein esce dall'ufficio di George Martin nella famosa Abbey Road, è entusiasta e al settimo cielo scrive un telegramma alla band che in quel momento si trova in Germania. Il telegramma recita: firmato e sigillato contratto EMI, stop, importanza enorme per tutti noi, stop, meraviglioso, stop. A stretto giro di posta riceve le risposte di tutti i ragazzi. Paul scrisse: si prega di accludere assegno di 10.000 sterline come anticipo. John chiese: quando diventiamo milionari? E George: posso ordinare 4 nuove chitarre? I Beatles in questo momento sdrammatizzano, ma non sanno che si sono avvicinati al vero, perché da questo momento inizia la loro brillante carriera. Vengono soprannominati ben presto i Fab Four, i favolosi quattro. C'è solo un ultimo problema da portare a termine, e anche in questo caso se ne occupa Brian. Alla Parlophone fanno chiaramente capire che Pete Best non è allo stesso livello degli altri tre e va sostituito. In realtà si dice anche che fosse troppo carino, troppo bello e che quindi Paul McCartney non vedesse di buon occhio, insomma, un altro bellone nella band. Fatto sta che i tre, Paul, John e George, mandano Epstein a parlare con Pete Best, che viene licenziato e viene sostituito da un ragazzo che fino a quel momento aveva avuto una vita un po' sfortunata, meningite, aveva imparato a leggere in tarda età, sembrava il più sfortunato di Liverpool, e a un certo punto invece entra nei Beatles. Questo ragazzo si chiama Ringo Starr. La partenza è alla grande e i Beatles, sotto la gestione di Epstein, riescono a piazzare 5 singoli tra i primi 10 dischi più venduti in Gran Bretagna, altri 7 nei primi 100. Ai loro concerti arrivano migliaia di ragazzi che si strappano i capelli mentre li ascoltano cantare. Insomma, il resto lo sapete: i Beatles partecipano al più famoso show televisivo inglese. Nel 63 vengono invitati al Royal Variety Show alla presenza della regina. Quando nel gennaio del 64 raggiungono il primo posto nella hit parade americana, Epstein organizza in fretta e furia un tour negli Stati Uniti. Il 7 febbraio 1964 i Beatles, accompagnati da Brian, sbarcano all'aeroporto John F. Kennedy di New York davanti a migliaia di fan urlanti. Viene chiesto a John Lennon: come avete trovato l'America? John Lennon risponde: a sinistra della Groenlandia. È un'esperienza incredibile quell'avventura dei Beatles, e Epstein la descrive nella sua autobiografia. L'intera struttura, in pratica tutta la parte superiore dell'aeroporto, sembrava gremita di persone. Fu un'esperienza terribilmente eccitante e uno dei momenti più memorabili della mia vita. Quando due giorni dopo i Beatles fanno la loro apparizione in televisione al Ed Sullivan Show, gli americani incollati davanti allo schermo sono 73 milioni. Niente male come dati d'ascolto. Non riuscivo a credere a ciò che mi stava succedendo. Certo, adesso fa parte della mia vita, ma in quel momento ebbi l'impressione che l'intera vicenda Beatles stesse sfuggendo al mio controllo. Sapevamo che l'America poteva distruggerci oppure trasformarci in stelle di portata mondiale. Di fatto, quella trasformazione ha avuto luogo. Brian Epstein era riuscito nell'impresa più incredibile: trasformare i quattro ruvidi ragazzi di Liverpool nelle star di maggiore attrazione al mondo. Un'operazione degna del miglior image maker degli anni 2000. Ma il punto è che questa trasformazione avviene anche in lui, in Brian Epstein, e la gestione del negozio di famiglia gli garantiva stabilità, anche se era una vita noiosa, e si trova improvvisamente proiettato in un mondo completamente diverso con l'enorme successo dei Beatles, e questo forse amplifica le sue insicurezze, i suoi problemi emotivi, l'infelicità dovuta alla sua condizione personale. E in realtà è proprio la molla che lo spinge verso i ragazzi della band, cioè quella di far parte di un mondo diverso dal suo. È un mondo scorretto, fantasioso, ironico, è un'arma a doppio taglio. Tra l'altro, il suo animo gentile e per bene forse non è attrezzato per gestire questa vita così on the road e così scorretta, soprattutto in assenza di un affetto stabile che lo tenga saldamente ancorato per terra. Ha scelto i Beatles per sentirsi parte di un gruppo, eppure con le centinaia di persone che sono intorno a lui dalla mattina alla sera, lui è ancora solo. Si è detto che Brian fosse segretamente innamorato di John Lennon e sicuramente è affascinato dal carisma di John, forse lo ama, ma nonostante una chiacchieratissima vacanza insieme in Spagna, non sembra che ci sia mai stata una relazione fisica. Hanno un rapporto profondo, anche se John lo prende continuamente in giro per il fatto di essere gay. Un giorno gli chiede: se tu potessi scegliere Happy e premendo un pulsante potessi diventare etero, lo faresti? Brian ci pensa un momento e poi risponde: per quanto ti sembri strano, no. Ma John sa anche essere affettuoso, come ci racconta l'avvocato di Epstein, Nat Weiss. Nell'aprile del 1967 ero con Brian nella sua camera d'ospedale. Era stato male quando arrivò un enorme mazzo di fiori. C'era un biglietto insieme ai fiori ed è stata una delle poche volte che ho visto Brian commuoversi e scoppiare in lacrime. Il biglietto diceva: ti auguro di rimetterti in fretta perché ti voglio bene e tu sai che lo dico per davvero. Firmato John. Brian vuole essere parte di un gruppo, vuole stare con gli altri, pur di essere della partita, inizia a fare le sue prime esperienze con la droga, marijuana e LSD, pur di stare coi Beatles. Ricordo questa immagine di lui con in bocca la fine di una canna. Sembrava una vecchia signora, anche se cercava di sembrare aggraziato. In realtà sembrava una vecchia checca. Eravamo tutti fatti e ridacchiavamo senza controllo. Brian invece tentava di controllarsi, con quest'aria per bene, poi però faceva dei buffi versetti. E noi giù a ridere come pazzi. Giù! Ma la sofferenza che sente lo rende più fragile degli altri. E così alle droghe unisce i medicinali, i sonniferi, antidepressivi. Decide di entrare alla Priory, la clinica dove tutti gli artisti dell'epoca vanno a disintossicarsi. Poi riprende a impasticarsi, a mille ansie. Non ultimo, la consapevolezza che i Beatles hanno sempre meno bisogno di lui. Il timore che essi possano non volerlo più, soprattutto in vista della scadenza del contratto, lo deprime e lo terrorizza. Nell'estate del 1967 i Beatles incontrano il Maharishi, decidono di seguirlo a un raduno a Bangor nel Galles. È il 25 agosto, Brian ha accettato di raggiungerli tre giorni dopo, lunedì 28. Però il 27 agosto il maggiordomo di casa e l'assistente personale trovano la porta di camera sua chiusa a chiave. Provano a chiamarlo e non ricevono risposta. Quando decidono di sfondare la porta è troppo tardi. In pigiama, circondato dalla corrispondenza, Brian Epstein giace senza vita sul suo letto. L'indagine stabilisce che la morte è avvenuta a causa di una dose eccessiva di barbiturici mischiati all'alcol. Suicidio? Morte accidentale, nessuno sa dirlo con certezza, neanche i Beatles che ricevono la notizia nel Galles. Per loro è uno shock. Nella prima dichiarazione rilasciata alla stampa, la voce di John Lennon è incrinata dalla commozione. Era solo un ragazzo, un bravo ragazzo. È terribile, non abbiamo idea di cosa fare. Il giorno della sua morte il Times scrive un articolo per ricordarlo, che si conclude così: Brian Epstein era parte dei Beatles, credeva nel loro talento. Fin dal primo momento ha pensato che si trattasse di un talento unico nel suo genere e vederli raggiungere il successo lo ha reso immensamente felice. E chissà se Brian Epstein quella fatidica notte ha cercato di mettersi in contatto con qualcuno che poteva alleviare le sue ansie e la sua solitudine. Non lo sapremo mai. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare questo colpo d'ala e nel caso di Brian Epstein il colpo d'ala è stato credere in qualcuno che avrebbe cambiato la storia della musica. Bene, se volete mandarci commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarci dove volete. Ciao. Tell me why. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.